Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Ciao a tutti, bentornati a una nuova puntata di Lucciole nelle tenebre. E come la settimana scorsa abbiamo in studio con noi i ragazzi della comunità pubblica del Pratello. E questa volta, visto che la volta scorsa ci hanno parlato della vita dentro alla comunità, ora ci parlano della vita all'esterno. Ma ce la introduce C. Buon pomeriggio a tutti, grazie Ele. Io sono C e rappresento il gruppo Indignabo della Rete Loyola al Centro Poggeschi. Siamo qui, come hai appena detto, insieme a M e Ciccio per approfondire la nostra chiacchierata. Io so che voi, oltre a vivere all'interno della struttura, vi muovete anche al di fuori. Ecco, sarei curiosa di sapere che cosa fate, attività, incontri. Io sono Ciccio. Io sono M. Niente, le attività che facciamo, ad esempio io faccio un'attività che sarebbe il corso barman. Questo corso barman, diciamo che ci si diverte molto. Diciamo che è un corso di formazione che servirà per il futuro. Mi rilascio un attestato giusto per entrare nel mondo del lavoro. Io invece faccio un'attività con un signore di nome Mimmo, che facciamo molte cose con lui, tipo costruiamo dei vasi di legno e poi piantiamo le piante per abbellire la comunità. Andiamo a casa sua in campagna, cuciniamo e mangiamo là. O un po' di tempo fa io con un altro ragazzo siamo andati in barca, nella sua barca, abbiamo mangiato lì, poi abbiamo fatto un giro là vicino e niente, poi dopo la sera abbiamo dormito in barca e il giorno dopo siamo tornati in comunità. Oppure facciamo il corso di falegnameria. Questo corso di falegnameria lo facciamo con un signore di nome Antonio, è abbastanza simpatico. E niente, qui abbiamo imparato anche a fare molte cose. Queste cose, ad esempio, lucidare ci vuole abbastanza olio di gomito, ma è un lavoro che anche durante il futuro potrà servire, perché anche questo è un lavoro che si sta estinguendo molto. Io per esempio ho imparato a scartavetrare i mobili, che vuol dire togliere le imperfezioni, o sennò montare e smontare mobili. E tutto questo ricavato dei mobili che vengono ricostruiti e venduti alla gente va a finire ai ragazzi più bisognosi, oppure in ospedali, diciamo, dove ce n'è bisogno. Ciccio, visto che tu sei una grande risorsa qui, sarai un futuro barman, ti vuoi dare qualche consiglio su qualche cocktail particolare? Futuro barman è una parola abbastanza grossa, è tutto da vedere, però ora vi consiglio una ricetta. Sarebbe la ricetta di un cocktail abbastanza conosciuto che si chiama il mojito. Il mojito, il vero mojito cubano, non è come quello che vi presentano nei comuni bar. Diciamo che ha una ricetta diversa. Questa ricetta sarebbe 4 centilitri di rum bianco cubano, 3 centilitri di succo di lime, 7 foglioline di menta non tritata, sciroppo di zucchero e ghiaccio sbriciolato grossolanamente e un goccettino di soda. Adesso facciamo uno stacco con una canzone che si chiama Cream dei Wu-Tang Clan. Cash food. Word up. 2 for 5's over here, baby. Word up. 2 for 5's. Niggas got garbage down the way. Word up. Cash rules everything around me. Cream it. Yeah. Check this old fly shit out. Word up. Cash rules everything around me. Cream it. The money. Here we go. Check this shit. Yo, I grew up on the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job. At second hands, moms bounced on old men. So then we moved to Shaolin Land. A young youth, you're rocking the gold tooth. Low goose, only way I begin to G-York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one. Pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking wools at 16. And running up in gates and doing it by high stakes. Making my way on fire skates. No question, I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I would flow off and try to get the dough off. Sticking up white boys on ballports. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route. So I got with a sick ass click and went all out. Catching keys from cross seas. Rolling in MPVs. Every week we made 40 G's. Yo, nigga, respect my a nigga to Tech Notch. Dollar bill, yo. It's been 22 long, hard years, I'm still struggling. to jail at the age of 15, a young buck selling drugs and such, who never had much, trying to get a clutch on what I could not. Court play me short, now I face incarceration, pacing, throwing up states my destination, handcuffed in back of a bus, 40 of us, life as a shorty shouldn't be so rough, but as the world turned I learned life was hell, living in the world no different from a cell, every day I skate from takes, giving chase, selling bass, smoking bones in the staircase, though I don't know why I chose to smoke cess, I guess that's the time when I'm not depressed, but I'm still depressed, and I ask what's it worth? Ready to give up, so I seek the old earth, who explain working hard may help you maintain, to learn to overcome the heartaches and pain. You got stick up kids, corrupt cops, and crack rocks and stray shots, all on a block that stays hot. Leave it up to me while I be living proof, to kick the truth to the young black youth. The shorties running wild, smoking cess, drinking beer, and ain't trying to hear what I'm kicking in his ear. Neglect it for now, but yo, it got to be accepted, that what? The life is hectic. Di nuovo in studio. M, ho una domanda per te. All'esterno come vi muovete? Siete soli, insieme agli operatori? Come funziona? Di solito quando usciamo il pomeriggio usciamo con gli operatori e andiamo in piazza a cambiare i film da vedere la sera, o se no andiamo al McDonald's a mangiare qualcosa o giretti così. E invece quando vogliamo uscire con i nostri genitori da soli dobbiamo chiedere un permesso agli educatori, ma prima di avere un permesso bisogna come prima cosa comportarsi bene, poi si può ottenere dopo 2 mesi che sei in comunità. Se tutto il percorso è andato bene chiedi agli educatori se si può e gli educatori mandano la richiesta al giudice, se l'accetta ti dà un permesso di più o meno 2-3 ore in città, poi dopo puoi chiedere un altro permesso dopo un po' di tempo che te lo darà di un paio d'ore in più, e poi al permesso dopo c'è caso che ti dia un permesso per andare a casa un pomeriggio. Grazie M. Ora una domanda che faccio a entrambi: c'è qualche avventura divertente che volete raccontare? Non so, un episodio simpatico di cui ridete ancora? Sì, un giorno io con un operatore sono uscito, siamo andati alla Coop e sono andato a comprare la Coca-Cola. Niente, mi avvicino alla Coca-Cola e di fianco a me c'erano 3 ragazze. Stavo per prendere la Coca-Cola quando l'operatore mi fa no, mentre guardavo l'orologio, e mi fa: dopo le 6 non puoi bere Coca-Cola perché sennò non vai a dormire. E lì mi sono vergognato abbastanza e me ne sono andato subito. Oppure un'altra occasione è stata quella lì del McDonald's. Questa cosa diciamo che mi ha un po' intimidito fra la gente, perché diciamo che i nostri operatori ci accompagnano di solito a prendere qualcosa, però in questo caso avevamo convinto di farci avere i soldi a noi stessi, il massimo sarebbe 3 euro. Con questi soldi di solito li usiamo per mangiare e niente, entriamo lì nel McDonald's, prendiamo quello che ci piaceva, una volta che usciamo gli diamo lo scontrino all'operatore e mancava 1,50 euro. Con questo 1,50 euro diciamo che abbiamo fatto una bella figura, perché siamo dovuti rientrare dentro davanti a tutta la gente e l'operatore ha ribattuto perché mancasse questo 1,50 euro, fino a non farselo riavere. Poi una volta usciti sempre a testa bassa, io ho deciso di non andarci più al McDonald's. Però in un'altra occasione ci sono dovuto riandare. Questa occasione che ci sono riandato è ricapitata di nuovo la stessa cassiera. La cassiera che mi è capitata ha detto, quando ho preso qualcosa da mangiare, ha detto: mi raccomando, questo viene 1 euro, questo viene 2 euro, questo viene 3 euro, il resto è 20 centesimi, non sbagliarti. E anche lì una gran figura, e sono uscito di nuovo a testa bassa. Bando alle chiacchiere, ci sentiamo questa canzone tutti assieme. Si intitola O Mare O Sol di Clementino e Rocco Hunt. Coppo bitte Fabio Masta, Rocco Hunt, Clementino, Differetta, Campania Basta, New Style, Ross, Salerno, S.A. Zeta Rocco, Bruno, Clementino, Fratemi c'è sedio, Mario Sol, ma manca l'aria, mo, fratemi l'aria sol. Aspetta retta, finestra, fin quando piogge, non c'è, ma mi ritassa una chance, ma logo non concesso. Fratemi c'è sedio, Mario Sol, ma manca l'aria, mo, fratemi l'aria sol. O casse d'aumento, fumo che trassi dall'uoglio, una cassa potente che trassi di capra a cena. Prego per frate mio, camarone, la cubagna, poi faccio sto a vivere, mi coriavo le semagne. C'è ancora mo cerca luce, reto buche, una persiana. C'è ancora troppo fiducia, per una birra che hanno a mano. Troppi frate, mezza vita, speranza e una fatica. Quando ti esci da mattina, piezza capito, facile. Ogni giorno è tale quale, quando passa rete cielo. Ogni frate che non molla, il mio futuro sta all'inferno. E essere triste, se alla fine meglio in un po' volentieri. Tombe bianche e cimitero, la vita ne è come vangelo. Nata mamma che mocchiaglia, perché ho figlio in sarrupiglia. Preferito unire a morte, se consolo con una re. Lucro balcone, vamo piglia e sigarette. Fa piacere a chi non scende, perché libertà ristretta. Perché a vita la costretta, punto fiere da bragasso. Perché a vita mette strette, chiude a nante e chiude scasso. Giova forte, nego colpo, ogni rimosso brucia un colpo. Per mochiagna e bagno volto, tutto resta gira storto e non vero. Caroppo che giova l'arcobaleno, solleva e bene e mette tutte cose a posto solo. La speranza è l'ultimo camone, ma spiss, e la prima che t'abbandono. Mezzo grigio e su stradone, ma rosso fa l'amore. La giletta in de poesia, ma spiss è eresia. Che fa male, poto, ma na vol. Fratemi c'è sedio, Mario Sol, ma manca l'aria, mo, fratemi l'aria sol. Aspetta retta, finestra, fin quando piogge, non c'è, ma mi ritassa una chance, ma logo non è concesso. Fratemi c'è sedio, Mario Sol, ma manca l'aria, mo, fratemi l'aria sol. O casse d'aumento, fumo che trassi dall'uoglio, una cassa potente, trassi di capra a cento. Why Rocco Hunt on the night, smoke the blunt, I drop salirne in Napoli, frate, ma vai mo. E planci tatanica, arancia meccanica, gancia più chimica, lyrical drugs con spirit in panica. Su smog e non fracass, l'unico sfogo fracassa è rullante, poi stressa te passa e chi cara cullass. C'è sta chi soffra retta, si sbarra, aumenta ne scarre, si spirra, ma tenen in gun. Clementine, spacca e vetrin, crack e patrin, macaron e vin, paccaro regime, poca raregina, poca candegina, tutta a rire, fino a in de gengive, l'aria se respira e non stai più attivo. Fino a che punto, stammi sicuro, cercammi cura contro disavventure e volta pare che parlo con mura. Mentalità vincente, con un microfono a lucro per una città che non sente. Fratemi c'è sedio, Mario Sol, ma manca l'aria, mo, fratemi l'aria sol. Aspetta retta, finestra, fin quando piogge, non c'è, ma mi ritassa una chance, ma logo non è concesso. Fratemi c'è sedio, Mario Sol, ma manca l'aria, mo, fratemi l'aria sol. O casse d'aumento, fumo che trassi dall'uoglio, una cassa potente che trassi di capra a cento. Eccoci ritrovati qui in studio con Radio Fujiko. Ci proponi qualcos'altro? Sì, ho un'ultima domanda. Ho pensato che come tutti i ragazzi della nostra età avete un sogno nel cassetto, no? Vi sarete fermati a pensare cosa vorrei fare da grande o quando questa esperienza finirà vorrei. Ecco, se vi va di condividere con noi il vostro sogno nel cassetto per il futuro. Ma il mio sogno nel cassetto prima di tutto sarebbe ritornare al sud, nel mio caro paese. Poi una volta tornato al sud, siccome ho dei terreni, di continuare la mia vita in campagna. Siccome è un lavoro che si sta estinguendo, sarebbe meglio farlo riemergere. Invece il mio sogno nel cassetto è continuare gli studi e prendere un diploma e sicuramente andarmene dall'Italia e non mettermi più nei guai. Vorrei andare in Olanda o in Germania, però per adesso non so ancora. E con questo mettiamo un'altra delle nostre canzoni, si intitola A Shot the Sheriff di Bob Marley. Cari ascoltatori, siamo di nuovo qui, penso che vi sia piaciuta questa canzone e niente, vi voglio ricordare di bere, di farvi il cocktail questa sera e mi raccomando, una volta bevuto non guidate e niente, vi saluto, saluto tutti i miei amici del sud, saluto tutti i ragazzi in comunità, compresi tutti gli operatori, gli educatori e la direttrice. Ringrazio Radio Fujiko e il gruppo Indignabo per l'opportunità. Saluto i miei amici, la mia famiglia e i ragazzi in comunità. Ciao a tutti da M. Un grazie mille a voi, Ciccio ed M. Un grazie a Ele, a Lucere nelle Tenebre, a Radio Fujiko e ai miei compagni di Indignabo. Questo è tutto, ciao da C. Ciao anche da me, che sono la tecnica. E ora vi lascio con la nostra ormai famosa canzone a sorpresa della fine. Garzone, benvenuti a una puntata buffia. Lo so, Eleonora, ti dispiace, ma la canzone non è partita e ci siamo qui in studio Stefano. Carolina, ciao ragazzi. Il grande ritorno di Carolina, che ci parlerà per questa rubrica buffia di... Allora, vi parlerò della mazurka clandestina che si terrà sabato in Piazza Maggiore. Scusate per le apparizioni che faccio ogni tanto, ma ci tengo particolarmente a informarvi che domani sera in Piazza Maggiore, dalle 22:30 fino all'alba, fino alle 7:30 del mattino, si terrà questa mazurka clandestina a cui parteciperanno anche i giovani danzatori bolognesi. Non so se li conoscete, ma sono un gruppo di ragazzi e non che si ritrovano ogni martedì sera alla BA alle ore 21 per ballare tutti insieme. I balli popolari. Balli popolari, esatto. Ci sei mai stato, Stefano? Sì, ma non sono un grande ballerino, ci sono stato una volta tipo. Però ragazzi, non temete, perché anche se voi siete scoordinati come me e Stefano, potete comunque partecipare, perché è per principianti e non. Il labà occupato dove si tengono questi corsi è un'ex caserma che veniva chiamata Caserma Masini ed è in via Orfeo 46. È un collettivo politico che è nato nel 2012 e ha occupato la caserma e restituito l'area alla città e alla collettività. Perché mazurka? Allora, sabato si ballerà principalmente la mazurka, che è un ballo folk nato in Polonia, e di sera in sera cambia, questo è il bello, quindi potete anche un po' inventarvelo. Perché mazurka clandestina? Ogni mazurka clandestina intanto è diversa, è una danza popolare ed è a volteggi sul tempo. Assomiglia un po' a un tango, ma è molto differente. Arriva in Europa grazie agli immigrati polacchi e ai rifugiati politici. Quindi, se vi piacerà ballare la mazurka clandestina in Piazza Maggiore, non potrete mancare il giorno dopo, quindi domenica 24 maggio, alle Fucine Vulcaniche. Cosa c'è alle Fucine Vulcaniche? Stefano, lo sai? Che c'è? No, cosa c'è? Allora, c'è la festa dei popoli e dei colori, dove diverse culture si amalgamano attraverso cibo, musica e danza. Il programma che può interessare a questi giovani danzatori è il seguente. Allora, alle 19 iniziano le musiche palestinesi, mentre alle 20:30 suoneranno i sambaradan con musica africana e samba, quindi ci possiamo scatenare. Alle 22 invece ci sarà musica afro calabrese, è un po' un mix Calafrica, esatto. Simpatico Stefano. E quindi noi vi aspettiamo per scatenarci. Ci riconoscerete a me e Stefano, saremo quelli controtempo in mezzo alla piazza. Probabile. Insomma, fine settimana di grande danze ci aspetta. Ma adesso vi lanciamo, per il piacere di Eleonora, alla canzone a sorpresa. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao ragazzi. Ciao.